dico sempre che non cerco amore, che preferisco badare a me, ma questa non è la verità, vieni a vedere perché. Sempre ridere, ma questa non è la realtà. Piango ogni notte sempre per lei, vieni a vedere perché. Dico sempre che odio l'amore, che non mi serve a niente, però prego perché il Signore lo sa che prima o poi lo troverò. Voglio che intorno tu sia solo la vita per me, voglio te notte e giorno, devo convincerti che capirai che il cielo è bello perché in fondo fa da tetto a un mondo pieno di paure e lacrime. Fragile, ricomincerai. C'è chi rinuncia all'amore solo perché non ne ha avuto mai. Eccomi qua, dammelo e dico sempre che odio l'amore, che non mi serve a niente, però prego perché il Signore lo sa che prima o poi lo troverò. Oh, voglio che tutto intorno ci sia solo la vita per me, voglio te fino in fondo, devo convincerti che vieni a vedere perché.